figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto. Un'iniziativa non profit, che è anche un sito online, conquista il Pulitzer, il più prestigioso premio giornalistico americano ma anche internazionale, nato nel 1917 per la carta stampata. Stiamo parlando di ProPublica, una testata online che fa giornalismo investigativo. Guidata dall'ex direttore del Wall Street Journal, ProPublica ha vinto quindi il riconoscimento con un'inchiesta sugli ospedali dopo il passaggio dell'uragano Katrina. L'inchiesta è firmata da Sherry Fink. People generally think that you can learn nothing by Monday morning quarterbacking. Why look at these people who are placed in a horrific situation? But I know from having been in those situations. Quel che ha fatto discutere in Italia è il fatto che ProPublica sia una testata su internet e che il Pulitzer sia andato per la prima volta a un giornale online. Ma noi vogliamo sottolineare anche la caratteristica di essere una non profit. ProPublica è stata fondata con 10 milioni di dollari l'anno da una coppia di imprenditori americani che volevano appunto creare un'associazione senza fine di lucro che cedesse gratuitamente le inchieste sul sociale ai vari giornali e siti web. Il servizio premiato, ad esempio, è stato pubblicato dal magazine del New York Times ed è stato messo a disposizione del magazine gratuitamente. Se in America viene premiato un sito giornalistico non profit, in Italia una recente decisione del governo di fatto sta creando difficoltà alle pubblicazioni del terzo settore. Parliamo del taglio alle tariffe postali agevolate che ha colpito l'editoria ma anche le ONG. Dal 1 aprile per le associazioni spedire il loro giornale associativo, le lettere di ringraziamento ai donatori oppure pianificare una nuova raccolta fondi tramite le poste costa il 500% in più. A sancirlo un decreto pubblicato il 31 marzo ed è entrato in vigore il giorno dopo. Una decisione che tocca appunto tutto questo grande mondo delle associazioni senza fine di lucro. Un silenzioso colpo di mano, dice Andrea Olivero, portavoce del Forum del Terzo Settore. Un decreto sconcertante, secondo Telefono Azzurro. Abbiamo sentito Riccardo Bonacina, che è direttore del settimanale del non profit Vita, che ha lanciato un appello online contro il provvedimento del governo. Va a colpire un settore che è tutto quello delle organizzazioni sociali, delle ONLUS, associazioni non profit, che godeva di questa agevolazione e che di punto in bianco, diciamo con uno scherzo tragico veramente del primo aprile, si trova un aumento di tariffe del 500% in un momento delicato come quello comunque delle comunicazioni che fanno le organizzazioni con il codice fiscale per il 5 per 1000 e che va a penalizzare un settore che appunto che si continua a guardare come un settore marginale, dimostrando zero lungimiranza e che quindi da una parte gli si dà qualcosa tramite il 5 per 1000 e con l'altra mano gli si toglie. 5 per 1000 che tra l'altro doveva diventare legge, invece dipende sempre dalle finanziarie. È la quinta dichiarazione dei redditi, doveva essere un periodo sperimentale, mi sembra che più sperimentato di così se muoia. Perché voglio dire, 15 milioni di italiani ogni anno scelgono di usufruire di questa possibilità e non farne una norma fiscale che entri nel quadro legislativo italiano significa comunque ogni anno concedere un favore, cioè quindi il 5 per 1000 sia per i contribuenti sia per le organizzazioni non profit rimane un favore che fa il politico di turno e questa è una cosa medievale. Tornando al taglio delle tariffe agevolate degli abbonamenti, qual è il danno per le associazioni? C'erano dei mailing in corso per il 5 per 1000, per le raccolte fondi, pensiamo alle riviste missionarie, diciamo quindi chi ha spedito pagherà, se è calcolato, anche il Sole 24 Ore ha pubblicato questo calcolo, si parla di 65 milioni di euro di aggravio per questo settore, no? E che quindi sono 65 milioni tolti ai servizi, alle ambulanze, al sostegno ai minori, alla cura degli anziani, e alla cooperazione internazionale. La cosa è nata politicamente, è un decreto interministeriale firmato da più ministri, La cosa politicamente si deve risolvere, cioè lo scenario peggiore è che le poste facciano qualche sconticino alle organizzazioni più grosse. Ecco, questo sarebbe un ulteriore schiaffo a un sistema che non si dimenticherebbe più di come è stato trattato. Continuiamo in parte a parlare di giornalismo, ma cambiamo completamente argomento. Diamo voce a un collega, un giornalista di Televideo della RAI, Nello Rega, che ha scritto un libro sulla difficile convivenza fra islamici e occidente, divisi e diversi. Questo è il titolo del libro e per questo libro ha ricevuto delle minacce. Sentiamo. Corte con proiettili sia nel parcheggio della RAI, a Saxa Rubra, sia casa a Roma, sia a casa a Potenza, e le ultime il 7 di aprile. Tu hai denunciato ovviamente tutto questo alle autorità? C'è un'indagine in corso da parte dei ROS, da parte della Procura della Repubblica di Roma. Ti hanno assegnato una scorta? No, c'è un sistema di sicurezza parziale che ovviamente credo sia poco efficace, visto che le minacce continuano e visto che queste persone, autori di questi gesti, sanno perfettamente cosa faccio, quando mi sposto, dove sono, eccetera. Perché gli autori di questi gesti si sono palesati in qualche maniera. Le lettere portano tutte la dicitura Hezbollah è un movimento sciita libanese nato per contrastare l'invasione del Libano negli anni '80 da parte di Israele, un movimento che è radicato ovviamente in Libano ma che ha anche delle propagini in tutto il mondo. Tu hai viaggiato molto per lavoro in Medio Oriente, hai scritto un libro di recente, a cosa colleghi in particolare queste minacce? Al fatto che conosco abbastanza bene il mondo medio orientale, conosco questi gruppi perché per lavoro li ho incontrati, li ho intervistati, mi sono occupato di loro, e poi perché in questo libro, in Diversi e Divisi, questo è il titolo del libro, io porto avanti, partendo proprio da quello che scrivono i teologi musulmani, le incongruenze tra il mondo occidentale e il mondo islamico, e quindi questo a una parte di mondo islamico non piace. Basti pensare a tutti gli altri che hanno scritto di Islam o in qualche modo hanno criticato questa religione, hanno tutti ricevuto delle minacce. Ora che cosa ti aspetti? Io vorrei tornare ad essere un uomo libero, soprattutto vorrei vedere da parte dello Stato una risposta concreta. Le mezze risposte credo che non servano a nessuno, perché comunque sono un dispendio economico da parte dello Stato, non garantiscono la completa sicurezza e soprattutto non sono da Stato civile. Se c'è questa pericolosità e lo si evince dal fatto che ci sia una mezza sicurezza, perché non estendere la sicurezza 24 ore su 24 e garantire ad un cittadino di vivere tranquillamente, di poter fare il proprio lavoro, di non dover comunicare dove va, in quell'albergo dorme, che percorsi fa? Credo che questo non sia da Stato civile. Hai paura? Abbastanza, perché prima le minacce credo siano state inviate e fatte da gruppi ben precisi, oggi ho paura di quelli che possono emulare questi gesti su internet, sui vari social forum. Io ricevo costantemente minacce da questi gruppi e quindi i miei nemici si stanno moltiplicando e quindi difendersi diventa sempre più difficile. In chiusura, un argomento più leggero, parliamo di vino. Deborah Rosciani è stata per noi al Vin Italy la settimana scorsa e ci racconta di una singolare iniziativa. Sentiamo al suo microfono Maria Sartolin, presidente dell'Associazione Italiana Persone Down della sezione Marca Trevigiana. Siamo dei piccolissimi produttori di vino. Il progetto nasce circa 5 anni fa da un amico che ci ha offerto una giornata di vendemmia presso la sua azienda, appunto il signor Giorgio Cecchetto, e da allora è nato questo progetto. Da una semplice giornata in allegria è balenata l'idea appunto di far vendemmiare i ragazzi, di far produrre loro proprio il vino. Hanno a nostra disposizione appunto un vigneto e puntualmente i ragazzi si presentano per la vendemmia, la pigiatura, tutto quanto, poi naturalmente lui ci aiuta nella vinificazione perché il procedimento è molto più laborioso e complicato. I ragazzi ritornano l'anno successivo per imbottigliare il prodotto finito a mano, come si faceva una volta, e il tappo, il sigillo, e nel frattempo, nel periodo in cui noi lasciamo che il vino vinifichi, i ragazzi producono le etichette proprio che sono uniche perché sono disegnate direttamente da loro, con la tecnica che loro vogliono, con il soggetto che loro vogliono, perciò non stupitevi se sulle bottiglie trovate un trattore o un sole, un fiore o un qualsiasi altro animale, non sicuramente soggetti che possono portare al vino, insomma. Naturalmente poi possiamo trovare anche in vendita i risultati di questo lavoro? La produzione è una produzione limitata perché non siamo in grado di fare grandi cose, gran parte se ne va con la giornata del Vinitaly, il resto se ci contattate in associazione magari possiamo accontentare. Allora adesso ci darà anche i riferimenti dell'associazione per potervi contattare eventualmente per avere maggiori informazioni su questo progetto e come si sviluppa anche nel tempo. Quanti sono i ragazzi che coinvolgete in questa operazione? C'è un ricambio di anno in anno? Questo sì, sicuramente arrivano sempre nuovi ragazzi perché poi le famiglie si avvicinano, sentono parlare degli altri, dei progetti che ci sono, perché poi questo è uno delle cose che si fanno in associazione. E innanzitutto noi lavoriamo sull'autonomia, il rendere autonomi il più possibile i nostri ragazzi perché abbiano un'inclusione sia scolastica che lavorativa, e poi tutto il resto è di contorno. Il produrre i biscotti, sono dei produttori di biscotti, nasce sempre dall'idea di un gruppo dei nostri ragazzi, quelli più adulti, si sono messi là, li hanno provati, riprovati, abbiamo trovato la pasticceria che ha messo a disposizione i locali, quando la pasticceria è chiusa andiamo a produrre questi biscotti che una volta venduti ci aiutano, come il ricavato del vino, a sostenere i progetti. Quali sono gli aspetti che divertono di più i ragazzi coinvolti in questo progetto? Chiaramente molti risultati dal punto di vista relazionale, e poi che cos'altro? Loro in che cosa si sentono più coinvolti? Loro sono orgogliosi di far vedere agli altri, perché loro comunque hanno la consapevolezza del diverso, e loro sono orgogliosi di far vedere agli altri che sono in grado di produrre, di fare, di lavorare esattamente come tutti i comuni mortali. Di conseguenza l'orgoglio di dirti: questo è il sacchetto di biscotti che ho fatto io, questa è la bottiglia di vino che io stesso ho vendemmiato, ho torchiato. Perciò per loro è un'esperienza fortissima che sentono. E il poter mettere in piedi un'azienda agrituristica sarebbe il coronamento di un nostro sogno, e sarebbe l'inizio per loro, avere un lavoro che gli permetterà di avere una rendita e vivere in un gruppo appartamento per conto loro, fuori dalla famiglia, come fanno tutti i nostri figli. Prima di chiudere non possiamo non citare il fatto che il 10 di aprile siano stati arrestati 3 volontari di Emergency in Afghanistan. Emergency, lo ricordiamo, è un'associazione umanitaria fondata a Milano nel 94 da Gino Strada per portare aiuto medico e infermieristico alle vittime civili delle guerre e della povertà. Dal 94 a oggi è intervenuta in 15 paesi, ha curato oltre 3 milioni di persone. Non vogliamo aggiungere altro. Salutiamo gli amici di Emergency e ci auguriamo che i 3 operatori vengano rilasciati al più presto. Grazie a tutti da Valentina Furlanetto, una buona giornata. Ciao.